Spara. Prima nota. Questa mattina mi hanno recapitato una lettera da parte di un avvocato. Una signora mi ha denunciato dopo aver trovato il mio libricino in camera del figlio. Lo ha letto e mi ha diffidato, definendomi scurrile, volgare e di bassa qualità letteraria. E aggiungerei anche sconosciuto. Cioè, ma stiamo scherzando? Appena alzato, con il caffè ancora sulle labbra e le mutande luccicanti, quella solita idea per la testa di aver passato tutta la notte a scrivere il più bel racconto della mia vita e quella sensazione di essere un artista perché mi aggiro per casa seminudo in uno stato di anarchia progressiva. Sono un artista, sono un artista. No, sei un fallito, direbbe mia madre. Per farla breve, mi hanno condannato a 3 mesi per disinteresse una questione di intossicarmi da volgarità gratuite in un centro dove ti fanno scrivere racconti stile Harmony, nient'altro. Questa mattina sono scappato per iniziare a lavorare su questo libro che avete fra le mani, scurrile, inutile, volgare e di bassa qualità letteraria. Insomma, me stesso. Buona lettura. PS. Potrei essere un culo emorragico. Sarebbe sicuramente molto palpo. Ma ci vuole poco a far finta di essere palpo. Basta far terminare tutto in una sega. Io non lo so. E non miro neanche ad essere. Mi piace solo sfruttare il tempo in attività meno concrete e logiche. Farsi una sega è logica. Farsela fare è palpo.